qua. Allora, un computer. Allora, non sono uscito, ho un po' di guarda che sto per nascondere su, diamo, prendi i soldi, no? E compra quello, e compra quello. Ma non mi vuoi recuperare che cosa? Non ti puoi permettere di lasciarla spenta o lasciarla da parte perché ti dice Bufina, eh. Memoria, me l'ho memorizzato dal canale 1 al canale 80, visto neanche io. Ma se leggevo bene, che è tutto ok. Sembra che non stia funzionando lì.